La Zanzara. 19:15 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori in diretta. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire anche questa sera con le vostre opinioni. Tra poco riprendiamo a sentirvi, adesso facciamo i titoli. TG3. Monti, l'evasione fiscale produce grandi danni al paese, siamo come in stato di guerra. Dalle elezioni dovrà uscire un leader e una maggioranza. Il Presidente del Consiglio annuncia iniziative contro gli abusi nelle intercettazioni, particolarmente gravi, dice, quelle che hanno coinvolto il Quirinale. Vertice con i ministri, Passera e Clini sul futuro dell'Ilva. Tensione nella Taranto blindata. L'azienda si impegna a risanare e intanto l'inchiesta si allarga. 13 indagati. Condannate a 2 anni per teppismo motivato da odio religioso, le 3 cantanti punk diventate il simbolo del dissenso contro Putin. Proteste nel mondo. Ai test per l'abilitazione dei professori molte domande erano sbagliate. Il ministero decide una sanatoria. Promossi quasi tutti e scoppia la polemica. In Sicilia una tunisina incinta si toglie il velo in strada per il caldo, il marito la picchia selvaggiamente, lei finisce in ospedale, lui in carcere. Olimpiadi concluse ma decine di atleti non sono tornati a casa, per loro Londra è stata l'occasione per sfuggire a guerre e fame e per chiedere asilo politico. Un paio di dichiarazioni di giornata sulla questione dell'Ilva, ve le vogliamo far sentire. Uno è l'ex ministro del welfare Sacconi, l'altro è Vendola, il presidente della regione che sin qua non aveva rilasciato grandi dichiarazioni attorno alla questione. Vendola ha detto il governo non farà ricorso contro la magistratura e poi ha detto i soldi che ci sono però sul tappeto, 500 milioni, sono solo l'inizio. Non sono 400 o 500 milioni di euro il plafond necessario per affrontare il ciclo epocale delle bonifiche e degli interventi di ambientalizzazione. Sono risorse importanti per cominciare e ovviamente vorremmo cominciare con un salvadanaio ancora più ricco e da questo punto di vista confidiamo nella capacità delle forze parlamentari di ottenere di più. Qualcuno ha ricordato sui giornali, credo, che per, ora non vorrei dire una fesseria, ma per Porto Marghera erano stati stanziati 5 miliardi. Quindi fatte le dovute proporzioni, 500 milioni non sono molti per davvero. Sentiamo un altro Vendola che invece ripercorre questo scontro che ci sarebbe stato, che c'è stato in parte tra il governo e la magistratura. Io ho rispetto per le opinioni, diciamo, di una parte più integralista dell'ambientalismo. Mi auguro semplicemente che si smetta il gioco, diciamo, di lanciarsi morti addosso, perché è un gioco infame. Così invece Sacconi, sentiamo. La vicenda dell'Ilva è rilevante in sé e perché concorre a ricordare che in questo paese esistono fortissime correnti politiche, sociali, giudiziarie, ostili pregiudizialmente all'impresa, ma in questo modo non saremo in grado di attrarre investimenti. Così inaspettatamente in parte convergenti questo Sacconi e questo Vendola. 800 24 0024, riprendiamo da Mauro che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera, io penso che questa storia della rottamazione sia una semplicemente un'assurdità, perché esistono geni giovani, esistono geni anziani. Noi abbiamo l'esempio di Einstein, che ha la sua fotografia più famosa in età ben avanzata, con i capelli bianchi, e che faceva un verso da bambino. Cioè, se il cervello ancora funziona e non è ancora capace, che senso ha eliminarlo? Però, scusi, restando a Einstein, il grosso delle sue scoperte sono state fatte quando era giovane. Questo anche è stato detto. Guardi, stato è... Ma però questo è vero, non c'entra nulla, non è questione di gioventù. Guardi, fare un discorso del tipo è questione di rinnovamento, è una cosa diversa. Ma no, è come, questo è un discorso che non ha senso, perché la vita è quella che è, ci sono persone esperte che sono brave, ci sono persone giovani che hanno buone idee, ci sono giovani malsani. Cioè io quando arrivò Bossi sull'orizzonte politico era una persona abbastanza giovane, era un'innovazione, ma io in automatico quando uno mi dice la Lega ce l'ha duro, questo lo cancello dai miei orizzonti politici, cioè è una cosa impresentabile e non l'ha detto un anziano. Ci sono anziani che dicono cose sagge, ci sono anziani suonati. Ora per compiacere chi ama... Ma anche gli anziani che dicono cose sagge, mi scusi, parlamentari che sono... da più di 30 anni in Parlamento, che hanno detto cose saggissime. Non c'è nessun altro più giovane che potrebbe dire cose altrettanto sagge, cioè sono veramente quel manipolo di 20-25 persone in Italia che hanno titoli per entrare in Parlamento. Utilizzi il ragionamento del liberalesimo, cioè è una competizione, se io sono migliore di te, l'età che ho cosa conta? Non è una partita a calcio, cioè là a 30 anni non corri come a 20. Però lei dimentica che a fare le liste degli ultimi eletti in Parlamento sono stati i partiti che avevano il pallino in mano, mi scusi, se no così... Sì, ma lei sta andando sulle classiche questioni della deviazione all'italiana, cioè... Per dire, di questo parliamo, dell'Italia, questa che abbiamo sott'occhio. A me che esca fuori un Renzi o chi per lui o su altri fronti qualcuno che dice dobbiamo rottamare, ma dimmi, dimostrami che tu sei più valido di Bersani oggi e vai a fare il presidente del Partito Democratico. Va bene Mauro, grazie. Sì, vorrei aggiungere io faccio il medico. Sì. E ho visto molta chirurgia, quando ero giovane non riuscivo a capire perché veniva impedito ai chirurghi giovani di muovere le mani, ma è una cosa sbagliata italiana, perché negli Stati Uniti insegnano ai chirurghi giovani, e i chirurghi che si specializzano escono dalla specializzazione che sanno operare con interventi di alto livello. Però i primari sono sempre di età maggiore e se ce n'è qualcuno particolarmente bravo, le università li chiamano anche a fare primari a 40 anni, ma perché è più bravo di quello di 60 anni? Altrimenti io ho conosciuto a UCLA, il primario della chirurgia del VA di Los Angeles, che si è andato in pensione, che era primario della chirurgia. Va bene, grazie Mauro, però questo non succede in Italia, perché non è che se uno è bravo a 40 anni scalza uno di 60, qua se uno è bravo a 40 anni fa la coda perché c'è davanti uno di 60, questo è quello che succede, generalizzando, quindi sto dicendo probabilmente una forzatura, però è una forzatura che riscontriamo in tanti campi. E mi sembra di dire talmente una sciocchezza, una cosa banale che dovrei ripetere, però è così, se no... bene, va bene, andiamo a Francesco che ci chiama dalla provincia di Foggia, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Io sto notando che lei sostiene abbastanza calorosamente l'intervento dell'esponente dell'Italia dei Valori, contraddicendo anche l'intervento dei miei predecessori. Chi mi ha preceduto. Cioè, guarda, io la penso esattamente come loro. Cioè, è semplicemente assurdo che un esponente dell'Italia dei Valori, questo partito che ha portato in Parlamento i Scilipoti e i Gregori, gente voglio dire che nulla hanno a che fare con la politica e con le istituzioni, cioè di fare questa lista di proscrizione di coloro che hanno più anzianità dentro le istituzioni. Il problema è esattamente l'opposto, è un problema di qualità, perché su 600 parlamentari, cioè non su 600 parlamentari, su 600 deputati, ce ne saranno 100 più anziani, ce ne saranno altri 500.000 anziani, ci sono quelli di 25 anni, di 30 anni, di 40 anni, ci sono di tutte le età. Allora perché questo esponente dell'Italia dei Valori non comincia a dirci cosa ha fatto lui in questi 5 anni, per vedere se ha fatto più o meno di Livia Turco, di D'Alema o di Lanalfa, di qualche altro? Non sarebbe meglio discutere di questo nello specifico, perché non è che la presenza di uno anziano costa più di uno meno. Ma scusi, meno anziano, perché non si può discutere, perché Francesco non si può discutere oltre che di cosa uno ha fatto, e di questo discutiamo sempre da Radio 24, ma anche discutere di un limite, per esempio, ai mandati parlamentari, che potrebbe essere un qualcosa, almeno questo è il punto di vista di alcuni, che fa bene magari anche alla democrazia e alle idee e al rinnovamento. Perché non si può discutere anche di questo? E la riforma della legge elettorale dove dà il potere al cittadino di eleggere il parlamentare. Se un cittadino non vuole più D'Alema, non lo vota, se lo vuole, lo vota. Caro Francesco, mi tocca ricordare anche a lei, Francesco, non è così, alle ultime elezioni, lei se lo ricorda, stiamo parlando di cambiare la legge elettorale, non era possibile votare scegliendo, ma c'era una lista, un ordine di preferenza fatto dalle segreterie dei partiti, per l'amor del cielo, è tutto legittimo, però questa è la realtà, non si sceglie un bel nulla, Francesco, se no mi dispiace, ma non è così. Bisognerà cambiarla la legge elettorale per tornare a scegliere, se no non si sceglie un piffero. E credo che ci si possa fermare qua. Io voglio salutare Rita Bernardini, intanto, deputata dei Radicali Italiani. Buonasera. Buonasera, un saluto a tutti. E chiederle come vanno le piantine di marijuana che ha mostrato su Facebook e che qualche settimana fa ha seminato in una conferenza stampa che ha fatto un po' discutere. Sì, no, abbiamo fatto, ma veramente devo dire poco discutere. Troppo poco. Allora, sì, questo è vero. La conferenza stampa è stata fatta il 18 giugno. Ed erano presenti con me quattro malati di sclerosi multipla che hanno difficoltà ad accedere al farmaco, alla cannabis, perché è un vero e proprio farmaco. E la mia azione non violenta di disobbedienza civile vuole fare in modo che i cittadini malati per esempio di sclerosi multipla, di glaucoma, oppure coloro che stanno in una fase abbastanza avanzata del tumore che curano con la chemioterapia, oppure ancora coloro che sono malati di AIDS, ecco, se non trovano beneficio dai farmaci tradizionali, quelli che fanno parte dei vari protocolli, beh, che possano accedere, perché sono riscontrate a livello scientifico, alla cannabis terapeutica, cosa che è consentita teoricamente in Italia, sì, ma nella pratica dei fatti sono solamente 100, un centinaio, le persone che hanno questa possibilità. Come mai? Perché non riescono a trovare il medico che fa la prescrizione, cioè che li visiti e sì, decide che possano essere curati con questo farmaco, perché dagli altri, diciamo, non hanno tratto benefici. Ci sono delle impossibilità di fatto, cioè, esatto, e questo crea poi il fatto che è impossibile ricorrere. Poi, no, ma una volta ottenuta la ricetta non è finito il travaglio, perché bisogna passare tramite l'ASL e l'ASL fa tutta una serie di iniziative di tipo amministrativo, perché pensate, noi che abbiamo il paese dove la cannabis potrebbe crescere tranquillamente, anzi abbiamo una tradizione che però si è interrotta nel nostro paese, importiamo invece la cannabis dall'Olanda, il farmaco Bedrocan, noi lo importiamo a caro prezzo dall'Olanda. E le vorrei chiedere questo, se ci può ricapitolare qual è la situazione riguardo all'uso, consumo, produzione di sostanze, di droghe leggere, mettiamola così, che secondo molti potrebbero essere tranquillamente legalizzate senza creare danni di nessun tipo. Oggi dove scattano i divieti? Ma guardi, intanto recentemente si sono pronunciati Roberto Saviano, che ha evidenziato più la parte, diciamo così, del proibizionismo, cioè dei guadagni incredibili che fa la criminalità organizzata. Recentemente, come saprà, è stato scoperto a Roma un tunnel. Sì, sotterraneo, tunnel, una cosa di 3 chilometri. Sotterraneo di Mussolini, sotto la stazione Casilina, dove c'era una vera e propria piantagione e si sono fatti i calcoli, insomma non stiamo parlando di poche decine di euro, stiamo parlando di guadagni veramente consistenti, mentre il professor Veronesi ha toccato più l'aspetto tra virgolette terapeutico. Quello che voglio dire è questo: allora, in Italia noi abbiamo una legge, la Fini Giovanardi, che praticamente punisce con la reclusione da 1 a 6 anni chi coltiva una o due piante sul terrazzo di marijuana per uso personale. E naturalmente se per le modalità della coltivazione, se non è rudimentale, eccetera, le pene possono arrivare da 6 a 20 anni, più le multe. A accade un fatto incredibile, che se invece una persona va dallo spacciatore, compra la sostanza stupefacente per uso personale, questa persona non ha sanzioni di tipo penale, ma è sottoposta solamente a sanzioni amministrative. Paradossalmente, se io non alimento il mercato criminale della droga, alimentato evidentemente dalla proibizione, subisco una condanna di tipo penale, mentre se vado a rifornirmi dagli spacciatori, in questo caso, se è per uso personale, la sanzione è amministrativa. Tra l'altro io sono anche riuscita a far calendarizzare in Commissione Giustizia una proposta veramente moderata, che prevede l'equiparazione della detenzione per uso personale alla coltivazione per uso personale. Però poi il ministro Severino ha deciso di stralciare dal suo provvedimento tutto il settore delle depenalizzazioni, per cui siamo ritornati a caro amico. È possibile anche dire quanta gente potrebbe uscire dal carcere se si facesse una depenalizzazione delle droghe leggere da questo punto di vista? Perché... Io credo che incida molto di più sui procedimenti penali in corso. Per esempio, sì. Le persone che sono in carcere, che sono tossicodipendenti, almeno per il 30%, sono persone che non è che consumano spacciano marijuana. Lo spaccio è di sostanze stupefacenti molto più pericolose, come la cocaina, l'eroina, e queste persone in realtà proprio per il proibizionismo, io direi, sono costrette, perché sono malate di tossicodipendenza, sono costrette a commettere tutta una serie di reati, fra cui lo spaccio, per procurarsi la dose per se stessi. Ecco, qui se ci fosse questo tipo di depenalizzazione, credo che inciderebbe molto anche sulle prigioni, tra virgolette. Senta, un'ultima cosa, quando lei andrà a fare, se ho capito bene, che cosa, per chiudere il cerchio di queste piantine? Di questa iniziativa, certo. Sì. No, intanto voglio precisare una cosa. No, perché sarà una scena da non perdersi, almeno da questo punto di io vista. Io voglio precisare una cosa, siccome qualcuno ha scritto su Facebook o da altre parti, dice tu lo fai perché tanto hai l'immunità parlamentare. No, io sto aspettando che, come accade per tutti gli altri cittadini, anche a me siano applicate le leggi che ci sono, che prevedono le pene di cui prima ho parlato, perché quando il reato è in flagranza non è prevista per il parlamentare nessun tipo di immunità e non è prevista la richiesta dell'autorizzazione a procedere, si procede direttamente. Quindi da un certo punto di vista io sono anche un po' meravigliata che le forze dell'ordine non siano intervenute, perché non ho fatto niente per nascondermi. Forse non lo sapevano questo particolare sulla flagranza, e quindi... Credo che lo sappiano, e come, cioè, non credo che siamo a questi livelli di ignoranza. E poi comunque, se non lo sapevano, almeno dovevano procedere con la strada della richiesta dell'autorizzazione a procedere, invece non hanno fatto proprio niente. Pensate che sin dal momento in cui io ho fatto la conferenza stampa e ho seminato, perché la coltivazione inizia con la semina, già in quel momento le forze dell'ordine potevano intervenire. Dopodiché io ho portato i 3 vasetti seminati a casa, e giorno dopo giorno è documentato su Facebook, si possono vedere come le piante sono cresciute. Insomma, stanno crescendo. Quando sarà poi l'appuntamento? L'appuntamento è quando, perché deve avvenire la fioritura, dopodiché io con la presenza di medici, eccetera, farò una cessione a quei malati che non sì. riescono ad accedere alla cannabis terapeutica. Guardate che io ho visto... E qui tra l'altro si scherza di meno, perché si parla di, certo. di cure palliative. Sì. Persone che stavano in carrozzella, li avevano provati tutti i farmaci che sono previsti e che sono anche molto efficaci, per esempio per la sclerosi multipla, ma loro avevano delle conseguenze molto gravi, degli effetti collaterali molto gravi. Insomma, io ho visto un ragazzo che tra l'altro fa parte dell'associazione Luca Coscione, Andrea Trisfoglio, che adesso cammina con le sue gambe, e un'altra ragazza, Lucia Spiri, che pure ha partecipato alla conferenza stampa. E quindi io dico, perché negare, se è previsto dalla legge, però ci sono, ripeto, tutta una serie di ostacoli burocratici che impediscono che le persone malate possano accedere a questo farmaco. Va bene, staremo a vedere, vi seguiremo sicuramente in questa iniziativa. Grazie Rita Bernardini. Grazie a lei. Buona serata. 19.40, ancora insieme fino alle 20.30 all'800 24 0024. Recuperiamo il filo degli interventi degli ascoltatori. Raffaele dalla provincia di Brindisi, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Il discorso mio, vorrei partire con una piccola spiegazione terra-terra. Io sono un padre di famiglia e se nell'amministrare quel budget che io riesco a portare a casa con il mio lavoro, e faccio delle spese enormi per raccontare i miei figli, faccio dei debiti e tutto il resto, alla fine si fa un volume così grosso di denaro da pagare che io non riesco più ad andare avanti. Facendo un parallelo è quello che è successo allo Stato italiano in questi ultimi 40 anni. Conseguenza, io sono stato un padre cattivo perché non sono riuscito ad amministrare, ma anche i politici nostri, tutti quelli che stanno adesso in Parlamento e quelli che si sono prima, prima di questi qua che ci sono adesso, hanno lavorato male e hanno fatto un mare di debito, arrivando ai 2.000 miliardi che abbiamo tuttora, circa 35-33 milioni di 33 mila, non mi ricordo se 33 mila euro a testa ogni pro capite che abbiamo adesso da pagare. Allora, se questo Parlamento non viene completamente sterilizzato, come un tumore, tolto di quel tumore, fatto una chemio per bruciare tutte le parti periferiche dove sono collegati questi politici a livello nazionale con i livelli periferici, dove si vanno a sparire tutti i soldi. Non l'ho detto io, l'ha detto un senatore della Repubblica parlando al Senato e dicendo queste sole parole. Non è lo stipendio del parlamentare il vero problema, ma è quel 35-40-50% di tutti i soldi spesi per quello che serve per mantenere lo Stato che ritornano ai politici sotto forma di tangente. Allora, se i giovani si mettono d'impegno e cercano di estromettere tutto questa abitudine, diciamo, io come un'abitudine, perché ormai sono abituati a mangiare in questa maniera da tutte le parti, vedersi ospedali, consigli di amministrazione, i malati non mangiano niente perché se li mangiano prima loro, la spesa farmaceutica che va alle stelle perché tutti ci zuppano il biscottino dentro e tutto il resto. Bisognerebbe troncare completamente questi fili di congiunzione, perché purtroppo è la politica che li ha uniti tutti assieme ed è come una sanguisuga. Grazie Raffaele, proviamo a sentire, noi. No, non si riesce a sentire dalla TV, abbiamo guasti problemi tecnici, perché c'era Cesare Prandelli su Sky TG24 intervistato, ma non riusciamo, no. Va bene, andiamo al prossimo intervento che viene da Milano e ci chiama Maria, buonasera. Buonasera, io e molta gente che sento quando vado a fare la spesa siamo proprio arrabbiati, indignati contro la politica, i politici. E comunque questo Monti è una persona onesta, questo è fuori dubbio, questo come per inciso. Siamo stufi veramente, perché anche questa senatrice o deputata radicale, ma che razza di proposta, perché non preveniamo invece con la scuola? Che, mamma mia, io ho sentito Penac, lasciamo stare anche la cultura, Rousseau, eccetera, eccetera, la scuola. Poi abbiamo una televisione che vergognosamente, proprio diseducativa, volutamente io penso di sì, e qua adesso abbiamo proposte proprio, ci prendete per stupidi i politici, proposte di Pietro cosa diceva, di non eleggere gente disonesta che ha già non è stata assolta per problemi gravi, mafia e altro. E adesso saltano fuori di quelle proposte, la radicale lì cosa propone? Perché non prevenire? Perché poche leggi ci vorrebbero, non un'infinità di leggi? Perché c'è tanta gente, meno male che ragiona la maggioranza, la base, però siamo stufi, insomma. Abbiamo sentito proposte che non voglio neanche... Ci sono tante cose buone, come diceva lei, il conduttore, e queste non vengono nominate. Qui vogliamo legalizzare tutto, anche le cose più perverse, terribili. Insomma, vabbè, io sento Maria, persone di leggere, sinistra... Sì, no, mi lasci finire. Sono cose perverse. Quello che ha detto Rita Bernardini non è una cosa perversa. È l'uso delle droghe leggere per la cura di certe malattie, e quindi non è assolutamente una cosa perversa. Comunque grazie Maria, andiamo a Ernesto che ci chiama da Roma. Buonasera Ernesto, ci sente? Pronto? Pronto, eccolo qua. Mi sente? Sì, la sentiamo, anche se non urla la sentiamo lo stesso. Ernesto, la sento pochissimo, comunque io la sento discretamente in abbasso. Sì. Buonasera, senta, no niente, io volevo soltanto dire che sono rimasto scioccato, basito dalla dichiarazione di Monti che dice non si possono diminuire le tasse perché non ci sono i soldi. Ma siamo sicuri che lo stesso Mario Monti della Bocconi, lo stesso Mario Monti che ha avuto un incarico importante in Europa? Secondo me è un sosia, non è possibile, perché se fosse il vero Mario Monti saprebbe benissimo che riducendo l'IRPEF sui pensioni, salari e stipendi aumentano i consumi, aumentando i consumi aumenta il gettito d'IVA. Sì, Ernesto, però lei la battuta è non carina. È guardate, sì. Diffidate dalle imitazioni. Sì. Aspetti un attimo, Ernesto, aspetti un attimo. La battuta è carina, però c'è un problema oggettivo. Si ricordi che se anche il precedente governo Berlusconi, che sull'abbassamento delle tasse aveva puntato quasi tutto e non è riuscito a farlo per ammissione stessa di Berlusconi, ma anche di altri ministri e esponenti del centrodestra, ci sarà un motivo, no? Il motivo è che con la montagna di debito pubblico che ha l'Italia, o si fanno delle misure tipo dismissioni, tipo taglio della spesa pubblica, quello che si sta cercando di fare in questo scorcio di legislatura, oppure non si abbassa purtroppo un bel niente, o si fa la lotta all'evasione fiscale. E questo mi sembra sperimentato anche da parte di un governo che ci credeva fermissimamente in questa cosa qua. Ernesto, se lo ricorda? Meno tasse ricordo, per tutti. Però ascolti, lì avevamo il riservofeno di Tremonti. Si ricorda di Tremonti che... Ma qualunque ministro dell'economia ci mette il freno a mano, perché dove si va, ripeto, se non ci sono le coperture con il debito pubblico che ha l'Italia, guardi, non si va da nessuna parte. Una diminuzione, con questo conclude la saluto. A mio sommesso parere, sì, una diminuzione dell'IRPEF su stipendi, salari e pensioni significa mettere in tasca agli italiani più denaro. Mettendo più denaro in tasca agli italiani aumentano i consumi, aumentando i consumi aumenta anche il gettito IVA, e guarda caso andiamo verso una situazione più interessante dal punto di vista dello sviluppo e della crescita. Va bene, grazie Ernesto, e questa del resto è una teoria detta, ridetta, e c'è un fondo di verità, però resta anche quello che le dicevo io, caro Ernesto. E adesso salutiamo Fernando Di Laura Frattura. Buonasera. Buonasera. Gli ascoltatori non molisani forse vorranno spiegazioni. Chi è? È ex consigliere regionale, ex assessore alla sanità della regione, ex deputato, ex segretario, tutto ex, regionale della Democrazia Cristiana, però attualmente è presidente dell'Associazione degli ex consiglieri regionali del Molise. Non so se ho detto tutto giusto di Frattura. Sì, sì. Laura Frattura. Come la posso chiamare, abbreviando, Di Laura Frattura? Frattura, no. Sì, come vuole, Frattura, Laura, di solito Frattura. Io definisco le persone da quale dei due coniugi la appellano, ho capito. Senta, anche i professori erano sì, chi mi chiamava Frattura era subito simpatizzato. Ah vabbè, allora Frattura. Senta, cominciamo subito col dire, l'argomento è quello dei vitalizi della regione Molise. Prima però le vorrei fare una domanda. Suo figlio è attualmente il leader del centrosinistra della regione Molise, o comunque uno dei leader. Sì. Poi dicono di Di Pietro e di Bossi che c'hanno i leader, perché tra l'altro lì c'è pure il figlio di Di Pietro. Sì, c'è pure il figlio di Di Pietro. Siete un po' la regione dei figli di, da questo punto di vista. I figli di, sono parecchi che sono anche, che hanno genitori ex politici. Sì. Figli d'arte. Figli d'arte. Lei insomma ha un lungo passato nella politica regionale e anche nazionale. Allora la questione è questa: voi immagino che come ex consiglieri della Regione Molise avrete festeggiato la decisione della Giunta di non decurtare del 25% i vitalizi degli ex consiglieri regionali. I suoi concittadini forse avranno festeggiato un po' meno, anzi si staranno mordendo le mani, perché questo sembrava un risparmio dei costi della politica a portata di mano, e invece no. Che è successo? Ma questo non è vero del tutto, però. Bisogna e qual è la verità? Anche a dire quali sono le verità, in effetto. E qual è la sua verità? Sì. Loro, la Giunta aveva predisposto il disegno di legge dove tutto quello che ha inserito la prima commissione non era stato previsto. Quindi è stata un'iniziativa della prima commissione di intervenire in tal senso nella proposta della legge finanziaria 2012. Ed è qui che è nata naturalmente la nostra presa di posizione, che non è e non vuole essere minimamente una difesa di alcun privilegio, soprattutto economica, ma deve essere soltanto una difesa per i nostri diritti, che non possono essere toccati laddove naturalmente non ci sono i presupposti per poterlo fare. Voi avevate pronto anche un ricorso al TAR, poi non è stato necessario perché appunto la Giunta si è mossa prima. Noi come in sede di approvazione della finanziaria da parte della prima commissione era stato inserito un emendamento Ma era una legge, però era una legge che era già stata approvata. Aveva approvato un emendamento. Esatto, poi questa legge è stata modificata. Da qui è la mancanza di necessità di fare ricorso, perché voi però avevate, come associazione ex consiglieri regionali, annunciato un ricorso al TAR. Però sì. Ma voi non, il fatto di subire questa decurtazione del 25%, io tra l'altro no, quant'è il vitalizio? Poi dipenderà da certi parametri. Non so se lei ci vuol dire qual è il suo. Ed è molto complesso per arrivare al calcolo, ma quello che io voglio precisare. Ma non ce lo vuol dire quant'è il suo vitalizio? Non ce lo... scusi, di Laura Frattura, non ce l'ho. Un attimo che chiudo la finestra perché passa. Però io le stavo domandando, ce lo vuol dire o no quant'è il suo vitalizio? Tanto per capire di cosa stiamo parlando, di questa decurtazione del 25%. Perché sa qual è il punto? Praticamente l'emendamento della commissione. No, aspetti, la domanda che io le ho fatto, poi lei mi può anche rispondere. Sì, scusi, di Laura Frattura. Torniamo al cognome completo, così ristabiliamo le distanze. Lei può anche rispondermi che non me lo vuole dire, però la domanda che io le faccio è, mi risponda, questa. Ci vuol dire quanto è il suo vitalizio, in modo che noi possiamo capire questa decurtazione, questo sacrificio del 25% che le veniva chiesto, a cosa corrisponde? Ci risponde? Certo, allora le faccio subito il parametro. Loro sono partiti dall'indennità, che hanno diminuito del 10%. Sì, e hanno fatto i loro calcoli sbagliandoli naturalmente, perché non era esatta la situazione, perché i consiglieri in carica si erano fatti una detrazione indennità del 10%. Però lei non ci sta rispondendo e neanche mi dice che non mi risponde. La domanda gliela rifaccio: ci dice quant'è il suo vitalizio o no? Mi dica no, così la chiudiamo. Il mio personale era di 3.920 euro. Così abbiamo capito, 4.000 euro. Il 25% sarebbero stati 1.000 euro di detrazione. Pere De Fundo, sì, dai miei oltre 16 anni di attività presso l'istituto regionale. Ecco, ma la domanda scatta... Del sì. numero dei, vabbè, sappiamo che ci sono dei parametri, ovviamente più si è stati esatto. Però la domanda è questa: in un momento come questo, in cui fra l'altro i prossimi consiglieri regionali non avranno più i vitalizi, perché questo che è stato considerato a livello politico un privilegio che non verrà più concesso, a chiedere un sacrificio a voi che invece questo privilegio lo avete, non ritenevate opportuno dare un segnale ai vostri concittadini da questo punto di vista? Certo, ma non nei termini che ha fatto la prima commissione. In quale termini? L'incidenza, no, così mi rispondo anche alla domanda che lei mi ha fatto. Per i consiglieri era del 10%, per noi era del 25,54%. Sì, però voi avete beneficiato. Intanto dalla prossima legislatura non ci sarà più il vitalizio. No, c'è il vitalizio. No, ci saranno delle indennità diverse. Al fondo contributivo. Esatto, cambiano tutti i parametri, sa, diventano un po' come i lavoratori normali, per cui quello che prende lei non lo prenderà più nessuno. Questo è chiaro, deve essere chiaro. Per questo, quando si chiede un sacrificio sul passato, la domanda è: non avete ritenuto opportuno farlo un sacrificio? Sì, noi ve l'abbiamo detto anche, sono tutta la documentazione, che eravamo pronti ad accettare e a parlare. Però eravate pronti a fare ricorso, scusi. Però non siamo stati assolutamente contenti dell'applicazione che loro hanno fatto, perché c'erano altri sistemi per poter arrivare ad una degustazione che l'associazione avrebbe accettato. È il modo con quale hanno fatto questi emendamenti che non è il modo, diciamo che è la quantità. Vi si chiedeva, secondo voi vi veniva chiesto troppo, il 25% è troppo, certo, voi volevate di meno. Sì, mi ha detto il 55-55%, il 54% per esattezza. Ma scusi. E quindi praticamente la decurtazione, facciamo stato su quello che era la mia indennità, così facciamo anche il paragone con i cechi, a conto il 2009 a me veniva 2008, per intenderci. Sì, però io ripeto, torno a dire, considerando che dalla prossima legislatura i vitalizi, così come ci sono stati fino adesso, non ci saranno più, ci sarà una pensione contributiva, quindi sarà molto molto più bassa di quella che avete preso voi fin qua, perché ci si è accorti che questo era un privilegio sbagliato. Non si poteva, in virtù di questo, accettare punto e basta la decurtazione del 25%, facendo fare più bella figura agli ex consiglieri e dando un segnale ai concittadini? No, non gliene frega niente. Sì. Sì. Passando al vitalizio contributivo, con il numero degli anni che era previsto e che è previsto nella nostra legge del vitalizio normale, loro arrivavano alle stesse condizioni. Questo è sbagliato, cioè c'è la convinzione che passando da quell'attuale vitalizio... Però voi avete un pregresso, sì. Lei da quanti anni di frattura, da quanti anni prende il vitalizio? Quanti? Da quanti anni lei prende il vitalizio? Da quanti anni? Da quanti anni? Momento... Sì. Da quanti anni? Me lo dico subito, io prendo il vitalizio dal 2000 circa. Ecco, sono passati 12 anni. Tutti questi anni in cui lei il vitalizio l'ha preso pieno, confrontati con quello che le dice che succederà per il futuro, che secondo lei è troppo rispetto a quello che toglievano a voi, si andava pari, insomma, dai, e quindi si poteva fare. Ma no, non è che si andava pari, perché anzi, le andava comunque bene. Questo, mi faccio finire questo concetto. Noi non stiamo facendo una valutazione economica, facciamo una valutazione. Pronto? Sì, sì, la sentiamo, la sentiamo. Io sono in silenzio, la sto ascoltando, prego. Ah, va bene. Dicevo, facendo questo rapporto, noi abbiamo tenuto a dire che la nostra richiesta era solo ed esclusivamente non per difendere un privilegio economico, ma per difendere i diritti che noi abbiamo avuto e che la legge lo dice. Ma lei crede che questo sia un diritto? Il vitalizio è un diritto? È questo il punto? Una proposta di togliere i vitalizi e non è passata. Non è un diritto il vitalizio, cioè, questo è il punto, sa, è su cui siamo in disaccordo. È stata respinta dal presidente Fini, sì, in quanto non poteva essere. Ma tanto lei non ascolta. Lei non ascolta, quindi ovviamente, perché altrimenti dovrebbe dire delle cose diverse. Il vitalizio non è un diritto, questo è quello a cui siamo approdati all'alba del 2012. Il vitalizio non è un diritto, quindi voi non perdevate nessun diritto. Io non so di cosa sta parlando, comunque ha detto la sua, noi abbiamo fatto le domande che le volevamo fare. Grazie al signor Fernando Di Laura Frattura, buona serata. Non so che sensazione avete ricavato voi da questa intervista, in realtà lo so che sensazione avete ricavato voi, grande frustrazione, poi vabbè c'è anche l'età, la difficoltà di capirsi al telefono, però su questo punto non ci si capisce, non ci si sente, va bene. Andiamo in attesa di sentire i titoli dei telegiornali, abbiamo già i titoli, sì, allora TG1. Monti, a causa dell'evasione siamo in stato di guerra, intercettazioni colle, interverremo su abusi, in arrivo novità in tema di giustizia. Ilva, vertice governo, enti locali e azienda, passera, no a decisioni irrimediabili, Clini, verranno ridotte le emissioni, Ferrante pronti 146 milioni. Taranto blindata, manifestazioni incrociate, non autorizzate, ambientalisti sfilano verso la zona rossa, operai bloccano l'acqua. Borsa in rialzo, Milano guadagna l'1,3%, spread a 429 punti, la Commissione europea avverte nessun piano per dividere l'euro. E Lucifero, l'ultimo anticiclone, in un'estate che ha battuto tutti i record, caldo intenso anche nei prossimi giorni, mentre è emergenza siccità, primi rientri e ultime partenze in un weekend da bollino rosso. Eccoci qua di nuovo rientrati, andiamo subito con Bruno che ci chiama dall'Aquila, buonasera. Buonasera, mi sentite? Forte e chiaro, Bruno, prego. Oh, grazie. Allora, stavo appunto sentendo pure i titoli del TG1, perché adesso sì, riparte alla grande, no? Il Monti, Presidente del Consiglio, siamo in uno stato di guerra con l'evasione. Ma non lo so, io siccome ho visto delle foto sui vari giornali senza cappello di paglia, o ha preso un colpo di sole o sta prendendo per i fondelli. Cioè, se ne è accorta adesso che stiamo in stato di guerra. Ma no, guardi, Monti su questo si può dire tutto, ma non che non abbia detto fin dall'inizio che l'evasione fiscale è una piaga e i blitz a Cortina, criticati tutto quello che vuole, però guardi, che l'abbia scoperto adesso mi sembra una boiata però, da parte sua. Sì. C'è un'intervista di Lustbach, lei sa perfettamente chi è Lustbach, giusto? Vada avanti, sì. Ecco, il noto iperliberista americano, no? Sì? Ecco, il quale lo ha spiegato molto bene. Cosa ha spiegato? In un'intervista a Il Mattino del 7 gennaio, subito dopo il blitz di Cortina, sì? Disse, ma perché in pratica l'evasione si fa con il blitz a Cortina? Allora però scusi Bruno, chiariamo subito una cosa, perché lei può essere in disaccordo sul fatto che la lotta all'evasione non si fa con i blitz a Cortina, però lei ha esordito dicendo Monti si è svegliato solo adesso ha scoperto che c'è l'evasione. Questo è sbagliato, Monti lo ha detto fin dall'inizio, ha fatto i blitz di Cortina, uno può dire i blitz di Cortina sono una cavolata, e allora parliamo di quello, ma non del fatto che non si sia individuato il problema l'abbiamo individuato tutti, che è uno forse il grosso problema dell'Italia, l'evasione fiscale. Ma io direi da cosa. Quindi partiamo di qui in avanti, forza. Sì. Perfetto, visto che lo sapeva, visto che hanno fatto una riforma delle pensioni in 2 settimane, potevano fare pure qualcosa, non in 2 settimane, ma in un mese, per l'evasione fiscale, o no? Perché il problema molto semplice, e lei lo sa pure meglio di me, la storia della famosa lista Falciani, che praticamente per una legge italiana, praticamente, la lista che ci hanno dato degli evasori, praticamente noi l'abbiamo scacciata, giusto? Ma la questione dei Falciani non la conosco nei dettagli, c'è una lista, È semplice, cioè i servizi segreti tedeschi sì, hanno dato un 1,5 milioni di euro. Sì, però vabbè, non ripercorriamo la questione della lista, perfetto. Le persone più o meno sanno che c'è una lista di nomi, esatto, c'è stato lo spionaggio intorno a questo, perfetto. Sì. perfetto, che tutti gli altri paesi hanno utilizzato. Noi l'abbiamo ricevuto con rogatoria dalla Francia, e appena il giudice si è trovato il primo, diciamo, imputato, questo si è rifatto una legge del 2006 che praticamente non si può utilizzare prove prese, diciamo, in maniera poco ortodossa. Per cui abbiamo scacciato la lista Falciani e da un punto di vista penale non ci può niente. Perfetto, giusto, e questa è la famosa lotta. Lì è il problema dell'accordo con la Svizzera, l'Italia no, sicuramente rispetto... No, è un'altra cosa. È un'altra cosa ancora. Ma guardi che c'entra, perché cioè, un conto è indagare penalmente dove ci siano evidenze di reato, un conto è fare accordi con la Svizzera per poter passare al setaccio i conti correnti. Sono due cose diverse e su questo l'Italia probabilmente è in ritardo su tutti e due gli aspetti. Però non è che la lotta all'evasione fiscale è solo la lista Falciani. Sarà anche qualcos'altro, non è che tutti mandano i soldi in Svizzera, ci saranno anche altre questioni. Se le verifiche della Guardia di Finanza hanno trovato quasi il 40% di irregolarità dall'inizio dell'anno ad oggi, è tutta gente che c'ha i soldi in Svizzera, probabilmente si tratta anche di spiccioli, di tanti spiccioli che non vanno in Svizzera ma che non vanno neanche nelle casse dello Stato. Comunque, sulla questione Falciani, io soprassiederei, se vuole proseguire sul discorso più in generale. Quello però, che diceva, ecco, per esempio c'è un'intervista di Lutwak al Mattino che diceva praticamente, quando l'intervistatore gli dice quale sarebbe il modo, risponde testualmente, sto leggendo diciamo, l'intervista, come si fa negli USA, un magistrato serio si documenta, ti chiama a processo per frode, cioè penale, l'udienza comincia alle 9 e alle 10 sei già condannato a 5 anni, dopo tra 5 anni te ne riparla, quello può fare appello, può fare tutto. Lei non so se lo sa, un milionario americano che stava in un consiglio di amministrazione di una società, per insider trading gli hanno dato come prima, diciamo, 25 anni di galera. Guardi, con me sfonda una porta aperta, io sono d'accordissimo con lei, quindi su questo siamo d'accordo, io e lei, poi che si possa fare in Italia, questo non lo so, è un altro paio di maniche. Non lo so, Bruno, vuole chiosare? Vuol dire qualcosa? Detto questo, poi non è che c'è Lutwak che ci insegna come si fa la lotta all'evasione fiscale, anche perché anche questa cosa che dobbiamo sempre andare a cercare chi ci fa le pulci, Lutwak, va bene, Lutwak ci insegnerà qualcosa. Del resto sono sistemi diversi, l'Italia e l'America. Però su quello che ha detto lei io sono d'accordo. Ci stringiamo la mano, Bruno? Sì, però ecco, te lo dico un'altra cosa. Per esempio, in Inghilterra è di ieri sui giornali, hanno pubblicato le foto dei 20 maggiori evasori. Ma io sono d'accordo anche su questo. Siamo d'accordo anche su questo. Italia. Poi volevo chiudere sulla riforma delle pensioni. Mi permette di citare una frase? No, guardi, le permetto io, non le permetto niente, perché la riforma delle pensioni è vecchia e invece l'argomento fisco è più attuale. Ci fermiamo qua e sentiamo i titoli della 7. Grazie a voi. I ministri Clini e Passera all'Ilva di Taranto, in una città blindata e divisa tra salute e lavoro. Quello stabilimento non si chiude, dicono gli emissari del governo, mentre l'Ilva promette altri soldi, destinati 146 milioni di euro per risanamento ambientale. Il governatore Vendola fa sapere che non ci sarà il ricorso alla consulta. L'evasione fiscale rappresenta una piaga, siamo in stato di guerra e questa è l'ora dell'adozione di strumenti forti. Un vero e proprio attacco del Premier nei confronti di quei cittadini che ci fanno precipitare nella crisi. La politica applaude, almeno a parole, ma Monti attacca contro le intercettazioni, troppi abusi, gravi quelle al Quirinale. Interverremo, insorge Di Pietro. Evasione vizio latino-mediterraneo che si intreccia con politica e furbizia. Quanto ci costa? Il 17,5% del prodotto interno lordo. A noi la medaglia d'argento, quella d'oro va alla Grecia, il cui sommerso vale un quinto del PIL, ma Atene è più abile di noi a recuperare i capitali. In testa alla classifica di chi froda il fisco c'è il settore del turismo. Continua la fase positiva dei mercati in questa seconda parte di agosto. Anche oggi borse europee con il disco verde. Madrid risulta essere la migliore, ma bene anche Piazza Affari con lo spread che rimane sotto controllo a quota 432 punti. La BCE sempre più decisa ad estendere il controllo a tutte le banche della zona euro, anche agli istituti minori. Dopo la polemica sulla sua scorta e sulle vacanze al mare, il presidente della Camera Fini prende carta e penna e scrive alla Repubblica. I privilegi, anche se legali, sono sempre privilegi. Stabiliamo nuove regole per decidere come risparmiare soldi e garantire le vacanze tranquille e sorvegliate dei politici. 2 anni di carcere alle 3 Pussy Riot, le 3 ragazze punk che avevano sbeffeggiato il presidente Putin. Teppismo religioso, una motivazione che suona come uno schiaffo ingiustificato alla libertà personale e come una vittoria di fatto nei confronti del potere russo. Ho trovato l'università ideale. Quale? L'università iCampus. Seguo le lezioni da PC o tablet e ho un tutor in città che mi segue. Pratica, seria e di qualità, come piace a me. Fantastico. Università iCampus. Ingegneria, psicologia, economia, giurisprudenza, lettere. Vai su uniecampus.it o chiama 800 410 300. La Zanzara. Mi sono dimenticato di chiedere a Frattura quante pensioni ha lui, quante cumula. Era una domanda che volevo fargli, ma sicuramente più d'una. La domanda è non se ne ha più d'una, ma quante, perché è consigliere regionale, poi è stato deputato, avrà avuto un lavoro. E lui diceva che il vitalizio è un diritto e loro non era una questione di soldi, ma era una questione di diritto. Io sono dichiarazioni che secondo me sono francamente vergognose. C'è un ascoltatore che dice: purtroppo bisogna riconoscere che i tedeschi hanno ragione quando non ci vogliono aiutare, specialmente dopo aver sentito il Frattura. Raffaello Ferrara, è così, ha ragione. Allora riprendiamo con i vostri interventi al numero verde 824 0024. Abbiamo Davide che ci chiama da Modena. Buonasera. Buonasera, buonasera. Io ho chiamato perché ho sentito l'intervento di Bocchino. Sì. Il quale auspicava con favore l'ingresso sulla scena politica di vari movimenti e manifesti che sono nati di recente, tra cui quello di Giannino, che è anche condivisibile per quanto mi riguarda il mio pensiero. Però sentire Bocchino, quindi un politico che anche lui, magari non come altri come Fassino, piuttosto che La Malfa, piuttosto che Pisano, manteniamo comunque da vuol sapere se è nella lista di Pedica? Adesso guardo, vada. Dico no, non roviniamo tutto così, cioè se devono arrivare questi movimenti civili, società civile, tutti che adesso si rifanno alla società civile, quando ne parlava Grillo all'inizio sembrava il populismo era la parola più in voga, tutti con la società civile, poi dopo ci sono questi partiti che sono già lì pronti a prendere questo serbatoio di voti per sé, per farsi una coalizione, per continuare a stare lì dove sono. Cioè, secondo me è vergognoso. Bocchino non è nella lista di Pedica, quindi è da meno di 16 anni in Parlamento. Questo ho dato una controllata. Sì, comunque, prego. Questo è giusto per così. Per pochi che siano, saranno 10 anni e gli paghiamo stipendi, rimborsi spese. No, ma non è che voglio difendere Bocchino, perché qualche ascoltatore ha detto intervista in ginocchio. Ma quale intervista in ginocchio? Ho fatto no, le domande. No, assolutamente. Che no, poi adesso tra l'altro, detto questa cosa, è sempre anche una persona molto. Gli interventi che fa sono sempre molto pacati, educati, quindi per carità, tra l'altro io sulla questione della cancelliera ho esordito dicendo che secondo me ha preso una cantonata, sbagliato ad accusarla, a dire che si deve dimettere per la questione della scorta Fini, che era una cosa esagerata rispetto a quel mini dibattito che ne era scaturito. Comunque, e poi Davide, volevo fare una battuta su un altro fatto del quale si è parlato, che è quello riguardante l'Ilva. E altra cosa che fa veramente specie è che in una regione, nell'unica regione d'Italia governata dal rappresentante di un partito che addirittura nel nome si richiama all'ecologia, siano dovuti arrivare i giudici a fare la parte dei cattivi, è verissimo, a intervenire con la mano pesante. E anche questa è una cosa che la dice lunga. E cioè, questo poi è il problema dall'estrema destra all'estrema sinistra. L'incapacità, poi si dà la colpa alla magistratura, no? Poi si dà la colpa alla magistratura di aver invaso il campo. Sicuramente la magistratura rischia di invadere il campo nel momento nel quale prefigura una politica industriale, ma nel momento invece nel quale sottolinea comportamenti che sono reati, se ci sono, ben inteso, e come dire, applica le conseguenze. È un allarme che io la vedo più come una tutela per tutti i cittadini, che certo. Come anche le parole del ministro, che dopo sono state riferite nel GR, e le parole del ministro, insomma, di pensare che ci sono dei magistrati che possono avere una cultura tale da voler impedire l'iniziativa privata, io mi auguro che di solito un ministro quando parla può andare bene. Mi questo è Sacconi, che... o si riferiva all'ex ministro, oppure si riferiva a Clini, un passaggio che io non ho sentito. No, secondo me era Sacconi. Sì, era l'ex Sacconi, ministro. Sì. Ministro, esatto. Ha detto che c'è una cultura anti-impresa e che è evidente da... Io mi auguro non so che da non cosa, sia così, sì. Però se lo dice lui magari si può anche fare un pensiero. Sì, può darsi che ci sia una cultura anti-impresa nel paese, ma non vedo perché debba essere associata al lavoro di un giudice che, ripeto, poi può darsi che abbia sbagliato tutto, però non mi pare che sui fatti venga contraddetta l'ordinanza del giudice. Non mi sembra che ci sia nessuno che contraddice. Poi si parla della necessità di collaborare, di non chiudere l'impresa, però nessuno contraddice le valutazioni che vengono fatte scientifiche sulla mortalità, sulle cause di malattie che derivano dall'IVA. E quindi dove sta la cultura anti-impresa? Va bene, grazie Davide. Ci fermiamo qua per il traffico, torniamo tra pochissimo per l'ultima parte, sempre con i vostri interventi 824 0024. Eccoci qua, andiamo a dare la linea ad Enea che chiama da Terni. Buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io attenzione più che... Lo sentiamo male, un attimo Enea, vediamo se riusciamo a se riesce a mettersi in un luogo forse diverso oppure a fermarsi. Perché non lo sentiamo e quindi non si può fare questa telefonata. Claudio dalla provincia di Savona, buonasera. Buonasera, la preferisco a Cruciani. Ha fatto un intervento molto preciso su Bocchino, meno allegorico ma molto più puntiglioso. In che senso meno allegorico? Meno allegorico rispetto a Cruciani. Cruciani in genere è molto più allegorico nella sua modalità di essere. Vorrei solamente iniziare con una battuta sul politico precedente, perché con quel cognome che si ritrova, se si arrampica sugli specchi come ha fatto nell'intervista, si fa male e si frattura. Fine, sì. E questo intervento, più quello di Bocchino, più quello che abbiamo sentito nei telegiornali, mi preoccupano particolarmente per il futuro, per il post Monti. Perché ci stiamo accorgendo di avere una classe, probabilmente non solo da ora, ma una classe dirigente che fa molta difficoltà a portarci in un futuro un pochino più tranquillo. Sì. E chiaramente su Frattura c'è poco da commentare. E su Bocchino mi riferisco alla frase dove si diceva in accordo immediatamente a tagliare il 20% delle scorte. E giustissimo. Effettivamente potrebbe fare una proposta e portarla in avanti in Parlamento. E mi pare che questa classe dirigenziale sia sempre prodiga di consigli solamente quando viene intervistata o finisce sui giornali. E di questo mi preoccupa e mi allaccio al fatto che gran parte di questi politici è anni che visto la lista del deputato. Va bene, grazie. Sì. Voleva aggiungere qualcosa? Ancora... Sì, veloce. No, mi preoccupa ancora di più il fatto, visto che comunque continua a non esserci questo ricambio generazionale. Sì. Secondo me sarebbe un aspetto positivo, lo sostengono in molti. Poi è chiaro che non basta l'aspetto generazionale, però sarebbe già qualcosa. Abbiamo recuperato Enea da Terni, intanto che sentivamo malissimo. Adesso forse Enea... Sì? Buonasera. Adesso sì, prego. Buonasera a tutti gli ascoltatori, la ringrazio di avermi richiamato. Io, come già detto ai suoi collaboratori, volevo lanciare una provocazione perché sono rimasto inorridito ascoltando quel signore, quell'individuo, non mi ricordo il nome, che vendeva strenuamente il suo 25% di furto che ci ha perpetrato per tutti questi 12 lunghi anni. E volevo proprio lanciare questa provocazione insieme a penso a qualche mio italiano virtualmente sputare in un occhio, perché è una cosa indicibile, non si può sentire, perché abbiamo 15 ore al giorno che lottiamo con i denti alla Totò, sì. Lei dice, no? Com'era Totò che partiva sempre lo sputacchio in un occhio? Sì, lo sputacchio in un occhio, perché io penso che su 10 milioni di italiani 9.999.000 lo farebbero in questo momento, perché non se ne può più di questa gente. Su questo non lo so, su questo se la maggior parte delle persone farebbero il passo indietro non lo so. So che loro non lo fanno e lo rivendicano parlando di un diritto, e secondo me in un'accezione che non c'entra nulla, perché il vitalizio non è un diritto. È assurdo parlare di diritti in queste e non è un bello spettacolo, non è un bello spettacolo, sì. Va bene, Nea. C'è questa gente che spero che ecco la vostra campagna di sensibilizzazione, intervistando questa gente, facendoci capire chi sono veramente, ci aiuti a schifarli ancora meglio. Grazie, questo potrebbe essere un elemento di discussione. Andiamo a Giovenale che ci chiama dalla provincia di Campobasso. Buonasera. Sì, buonasera. Congratulazioni per la conduzione innanzitutto. Grazie. Io vorrei accodarmi ai due precedenti perché sono sulla stessa scia a proposito della spudoratezza del Di Laura Fattura, sì, il quale ha rivendicato dei diritti acquisiti. Ora, se questa regola valesse per tutti, vabbè, nulla da eccepire. Però vorrei ricordare a questo signore che si lamenta di una decurtazione di 800.000 euro su 4.000 euro per 16 anni che ha fatto il consigliere regionale. Non so quanti altri ne prende per aver fatto il parlamentare. Vorrei ricordare che ai poveri disgraziati italiani normali come me è stato negato da quest'anno l'adeguamento della pensione all'inflazione, che si trattava di poche decine di euro al mese, badi bene, certo, perché lo Stato doveva risparmiare. Senta, e Giovenale, oltre, ma lei Di Laura Frattura se lo ricorda? Lo conosco, lo conosce, non che me lo ricordo, perché è un politico della sua regione. Sì, è un politico nato a Riccia. Sì. E quindi che poi voglio dire, lui ci ha messo la faccia, da questo punto di vista forse gli va anche dato atto, è venuto a dire quello che ha detto, gli altri che si prendono, gli altri 63 membri dell'associazione consiglieri perché regionali, no, mi faccia finire, vale anche per loro, se sono all'ascolto, amici, parenti, cognati, sì, conoscenti, sì, elettori, tutti, bella, sì. Sì. Lì c'è tutta una dinastia, e sono più di una le dinastie ormai in politica qui nel Molise. Comunque, e un'altra cosa, tutti coloro che sono andati in pensione negli ultimi anni sono state cambiate le regole del gioco durante i 40 anni di servizio e anche quelli sono stati mortificati i diritti acquisiti, perché quando uno viene assunto, anche dallo Stato, viene assunto in determinate condizioni e adesso che dopo 20 anni di servizio si cambia la prima volta il calcolo della pensione, dopo altri 20 gli vengono rimodificati non solo i calcoli ma anche i tempi e le modalità. Scusi, questi non sono diritti acquisiti che vengono calpestati? E lui si lamenta per quei pochi, vabbè, a parte questo. E poi vorrei lanciare un appello, dal momento che la sua trasmissione è molto seguita. Nel 1959, scusi se vado troppo indietro, la lira ebbe l'Oscar della moneta mondiale dal Financial Times. E inoltre, in quello stesso anno, l'Italia aveva 3 miliardi e mezzo di dollari in riserva aurea ed era la prima al mondo. Io vorrei sapere se qualche politico o qualche studioso in ascolto che fine hanno fatto e chi controlla questa riserva aurea attualmente. Il giallo, il mistero della riserva aurea, questa è una domanda, una bella domanda. Sicuramente dal 59 ad oggi sono cambiate tante cose e l'Oscar che allora la lira si prese non ce la meriteremo più, se non altro per la montagna di debito pubblico che abbiamo creato. È ossessivo ripeterlo, ma è la verità, cari ascoltatori, cari tutti. Dove andiamo? Daniela da Roma, buonasera. Buonasera. Eccoci. Allora, io sono un funzionario INPS. Sì. Faccio parte di una famiglia grande e vabbè, insomma, lamento le lacrime della Fornero sulle pensioni, però senza poi mettere mano, voglio dire, sulle pensioni quelle più importanti, diciamo, no? Mm-hmm. Quindi voglio dire, alla fine abbiamo toccato solo i soliti noti. E anche perché voglio dire, chi ha una pensione voglio dire, ha un risparmio minimo, chi ha una pensione d'oro ha un risparmio massimo, quindi vabbè, non si è fatto. Poi sempre da parte INPS, io ho lavorato anche in un settore che riguardava anche la parte che riguardava la allora, vi ringrazio per avermi chiamato prima di tutto. Sì, è un momento di impasse. Perché... Daniela, va bene, non si preoccupi, se mai ci risentiamo un'altra perdere. Volta. Sì. Oh, e poi, insomma, comunque voglio dire, a me è capitato di lavorare anche in un settore dove c'erano delle situazioni, insomma, dovevo controllare delle società che avevano appunto in essere questa società. Sì, però cosa ci vuol alla dire, fine, Daniela? Nessuno era responsabile là dentro, sì. Quindi nessuno pagava niente per nessuno. Cioè c'è gente che non paga. Vabbè, Daniela, grazie. Sono affermazioni un po' casi che non conosciamo. Comunque, Filippo da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Guardi, sottoscrivo le cose che ha detto il penultimo ascoltatore e per certi versi per lavoro mi trovo a dover fare i conti con purtroppo persone che magari pensionate con tagli eccetera eccetera, non gli si chiede i soldi, nel senso che faccio parte dell'ufficio verbali di un comune e lì sì, purtroppo... Cioè ufficio verbali di verbali fiscali? No, verbali di multe, e gli si chiedono multe arretrate, eccetera, eccetera, e ti trovi ad avere a che fare con gente che che ha delle dichiarazioni ISEE veramente minime. Vabbè, però Filippo non sia così abbattuto per questo, no, deve essere il suo lavoro, guardi, che ci deve fare. Io le assicuro che non è una cosa semplice. No, ma figuriamoci, me lo immagino. Però quello che ho sentito da quel soggetto, consigliere regionale, insomma. Ex consigliere regionale del Molise, di Laura Frattura. Ecco, vede, sì. Il problema sa qual è? Che lui non è l'unico. Cioè, la modalità, l'argomentare è il medesimo che si sente da tanti soggetti che hanno, come dire, acquisito una loro dicono un diritto, no? Questa roba non sta insieme con quello che vivono le persone tutti i giorni. Io penso che io temo che a livello di diritto loro abbiano, tra virgolette, ragione, nel senso che troveranno sempre un TAR, un Consiglio di Stato o qualcuno che gli darà ragione. Io sto davvero ormai, pur essendo nelle istituzioni e rispettando le norme eccetera eccetera, sto iniziando a pensare che che ci sono due soluzioni. Una, gliele faccio dire in 20 secondi perché poi chiudiamo per stasera. La prima è prendere le legnate sulla schiena. La seconda è che, come dire, ci sia una sorta di non dico di colpo di Stato, ma di modalità per le quali tutte queste cose non possono più essere fatte valere. Filippo, grazie, dobbiamo fermarci. Finisce qua l'appuntamento per questa sera e anche per questa settimana. Grazie a tutti per averci seguito, anche agli ascoltatori in linea. Li richiameremo lunedì. Torniamo dopo il GR delle 18, l'orario estivo della Zanzara estate, 18, 20 e 30. Buona serata, buon weekend a tutti. Radio 24. La passione si sente.